Log, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Forse ce lo siamo dimenticati, ma visto che in questa edizione di Melog la realtà condivisa è il tema portante, o perlomeno il filo su cui snoccioliamo le nostre riflessioni, qualcuno di voi ricorderà che, ma nemmeno tanto tempo fa, qualche mese fa, lo status di apertura di tutti i profili Facebook, di tutti i bravi osservatori della contemporaneità, iniziava con una frase. Una frase che era stata estrapolata, sommariamente tradotta e interpretata da una sorta di discorso che assumeva il carattere di epitaffio di un grande personaggio della contemporaneità che aveva posto termine alla sua avventura esistenziale. Imparai l'importanza della variazione dello spazio tra combinazioni diverse di carattere e mi insegnarono quali elementi fanno della tipografia una grande tipografia. Era affascinante, si trattava di storia, bellezze d'arte, come la scienza non può catturare. Niente di tutto ciò aveva la benché minima speranza di una qualunque applicazione nella mia vita. Ma 10 anni dopo, quando stavamo progettando il primo computer Macintosh, tutto mi tornò utile e lo mettemmo interamente nel Mac. Era il primo computer che curasse la tipografia. Se non avessi mai scelto quel corso al college, il Mac non avrebbe mai avuto font proporzionali e font a larghezza fissa. E siccome Windows... Questa è parte del discorso che fece il famoso Steve Jobs all'Università di Stanford, tradotto in italiano, e da cui poi abbiamo è stata estrapolata, che diventò l'epitaffio, la frase fondamentale: siate folli, siate affamati. Tradotta così poi dice esattamente poco: la follia legata alla fame non porta naturalmente a pensare all'intrepidezza della libera creatività. Noi ci siamo molto dilungati, soffermati e cullati sul mito Steve Jobs e anche sul mito di un altro personaggio vivente, tuttora vivente, ispiratore e fondatore di uno dei sistemi di comunicazione e dispensatore di felicità relazionale più frequentato anche dalle persone che mi stanno ascoltando. Devo inventarmi qualcosa di grosso per farmi notare dai circoli studenteschi. Perché? Perché sono esclusivi, divertenti e ti cambiano la vita in meglio. La gente vuole andare su internet per sapere cosa fanno gli amici. Serve un sito web che glielo permetta. Amici, foto, profili. Voglio prendere la vita sociale dell'università e metterla online. Il sito ha avuto 2200 contatti in 2 ore. Di più, ne ha avuti 22.000. Questa idea potrebbe valere milioni di dollari. Milioni? Ci avete fregato il sito. Dicono che abbiamo rubato Facebook e che... Lo so cosa dicono. Ed è vero. Un milione di dollari non conta. Sai cosa conta? 1 miliardo. Non reggerai il passo. Sta crescendo molto più in fretta di quanto potessimo immaginare. Portiamolo davanti a una corte federale. Non vedo l'ora di guardarti mentre ci firmi un assegno. Se foste gli inventori di Facebook, avreste inventato Facebook. C'è qualcosa che dovresti dirmi. Potresti aver distrutto tutto quello a cui ho lavorato. Abbiamo lavorato. Ti piaceva fare lo zimbello? Anche questo è un altro dei miti su cui si fondano, giustamente, perché mai porre limiti alle speranze, le attese di generazioni e generazioni. È quello di inventarsi, di creare, di trovare l'idea del momento, come appunto Zuckerberg fece ai tempi dell'università, capire che in realtà il tassello che mancava in quel momento, con un piccolissimo lavoro di sviluppo informatico, era dare uno strumento di relazione, di messa in condivisione degli immaginari, dei desideri, della domanda offerta di libera relazione che esisteva nei circoli studenteschi, ma in realtà allargandolo poi a tutta l'umanità, in cui ognuno di noi aveva dei leciti e probabilmente sopiti desideri di conoscere, di relazionarsi, di mostrarsi, di autodignificare la propria esistenza. E quindi questi personaggi, come prima appunto Steve Jobs, adesso Mark Zuckerberg, sono persone che comunque hanno dato l'idea di un grande miracolo, di una grande possibilità di uscita dall'anonimato attraverso una fantastica idea che improvvisamente cambia qualcosa dell'umanità di cui si fa parte. Ma tutto questo è avvenuto a latitudini lontane da quelle in cui in questo momento io mi sto esprimendo, voi mi state ascoltando. Avete mai pensato, naturalmente ormai le potenzialità, le occasioni sono naturalmente, seguono la linea della globalizzazione che segue un'espressione umana, quindi ovunque c'è possibilità che scatti l'idea che possa cambiare l'umanità e cambiare la vita di chi l'ha avuta. Ma se tutto questo fosse accaduto dalle nostre parti, se ad esempio Steve Jobs fosse nato a Napoli, cosa sarebbe accaduto? Un computer nuovo, che si chiama Q e che viene fabbricato ai quartieri spagnoli di Napoli. Ripeté come tra sé il direttore a voce alta. È un'idea bellissima. Due giovani, quartieri spagnoli. La Napoli che pensa, la Napoli che lavora, la Napoli che innova, la Napoli che produce, la Napoli che si rimbocca le maniche, la Napoli che prende in mano il suo destino. Il sorriso dei ragazzi era una paresi. Avete tutta la mia ammirazione, ragazzi. Complimenti. È una storia che seguiremo questa mattina di due aspiranti Steve Jobs. Sono due ragazzi nati non nella produttiva e fantasmagorica parte più vivace degli Stati Uniti, ma nati nei quartieri spagnoli di Napoli. I loro nomi sono Stefano Lavori, quindi già c'è una sorta di predestinazione, come Jobs lui si chiama Lavori, c'è qualcosa di comunque probabilmente un segno del destino, e l'altro è Stefano Vozzini, che hanno avuto anche loro una grande idea e anche loro hanno pensato di proporre questa grande idea laddove naturalmente la natura li ha collocati. Antonio Menna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Antonio Menna è il cronista di questa storia. Se Steve Jobs fosse nato a Napoli, è una storia che nasce soprattutto in rete, all'inizio nasce in rete. Ecco, quante persone hanno letto la storia di questi due ragazzi prima che diventasse un libro che oggi tra le mani è pubblicato da Sperling e Kupfer? Il post è stato letto da circa 400.000 persone, o meglio, ha avuto 400.000 visualizzazioni, quindi ci saranno stati dei ritorni, ma 400.000 visualizzazioni solo sul mio blog, poi è stato abbondantemente replicato e rilanciato anche da altri siti, io l'ho visto condiviso molto su tutte le bacheche di Facebook, ripreso poi curiosamente dopo qualche giorno dai giornali, cioè la carta stampata è arrivata con qualche giorno di ritardo, arrivando perfino sulla seconda pagina di Le Monde. Diciamo che mediamente un libro scritto da una persona che di professione non fa proprio l'autore di bestseller, se riesce a vendere 4.000 copie l'autore stappa lo champagne. Non è detto che tutte le copie vendute siano lette con tenacia dalla prima all'ultima riga. Quindi questa idea, la storia di questi due ragazzi che anche loro come Steve Jobs hanno inventato qualcosa, potrebbe rivoluzionare il mondo, è diventata qualcosa di fortunato, perlomeno ha richiamato l'attenzione seguendo percorsi non convenzionali. Quindi già in sé la profezia sarebbe stata felicemente conclusa da parte di chi ha raccontato la loro storia, ma noi questa mattina vorremmo presentarla come un paradosso possibile. Antonio Menna, che è un blogger, collabora con Il Mattino, è una persona molto attiva nei sistemi di interazione, comunicazione, diffusione del pensiero che non sono propriamente quelli proclamati come ufficiali. Ha appena dimostrato in questo momento che comunque quando un'idea c'è, quando si tocca un segmento di realtà che desta curiosità, desta interesse, perlomeno riempie dei vuoti, risponde a degli interrogativi, qualunque tipo di supporto, qualunque tipo di propagazione funziona. Cosa domando al pubblico questa mattina? 800240024. Vi chiedo di rispondere anche voi a questa domanda. Se Steve Jobs fosse nato a Napoli, cosa sarebbe accaduto? Quanti di voi sono sentiti portatori di un'idea innovativa, di un percorso che avrebbe sicuramente portato l'umanità a un livello di consapevolezza, di partecipazione e felicità maggiore di quello che attualmente sta vivendo, e vi siete trovati di fronte al fatto che anche voi eravate geograficamente collocati in una sorta di Napoli immaginaria, immaginiamo come un luogo dello spirito, un luogo dell'essenza in cui tutto sembra facile se si seguono certi percorsi, ma tutto diventa impossibile se il percorso è quello che dovrebbe fare una sorta di Steve Jobs. Ad esempio Ludovico, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il primo aspirante Steve Jobs che sì. Si è prodotto in una Napoli dell'immaginare. Ma io sono un inventore, ho più di 70 invenzioni sulle energie rinnovabili E purtroppo in Italia chi ha le idee non potrà mai diventare lo Steve Jobs o Bill Gates. Io sto per fare sto per andarmene negli Stati Uniti perché voglio diventare lo Steve Jobs dell'energia, cosa che qua in Italia io non riuscirò mai a realizzare. Qualcuno ha preso sul serio, diciamo, le tue idee, i tuoi presupposti, quello che tu hai proposto? Sì, tant'è vero che hanno copiato, imitato il mio brevetto, che è una turbina che sfrutta le correnti marine, e l'hanno realizzato in Canada facendo delle modifiche. Altre mie invenzioni, altre mie idee che sono andato a proporre a delle aziende, poi le ho viste sui loro cataloghi. Purtroppo l'Italia è il paese dei furbi, dove anziché aiutare chi ha le idee a sviluppare e fare business, alla fine lo vogliono fare loro, fregando e copiando l'idea. Resta lì, Ludovico, non te ne andare. Antonio Menna, i due ragazzi la cui storia tu hai raccontato hanno dei punti in comune con questo ascoltatore che ha appena chiamato? Assolutamente, intanto hanno una paura incredibile che qualcuno gli rubi l'idea, quindi hanno ben presente, diciamo, il rischio che qualcuno di più sono potrebbe... nella patria del tarocco, diciamo la verità, senza oltretutto, ma loro come fanno le borsette finte, è chiaro che anche le idee per l'energia solare possono essere subito copiate. Curiosamente loro hanno un'idea originalissima che poi gli viene rubata da altri, quindi in questo caso, diciamo, come dire, sovvertono un po' il cliché, no, della Napoli. Cosa si erano inventati questi due ragazzi? Loro avevano tra le mani l'idea di un computer straordinario, super veloce, compatto, molto leggero, che non si bloccava mai e che aveva un design innovativo. Infatti uno studiava architettura, l'altro era un genio dell'informatica. Ecco, ma mi spieghi una cosa: se Zuckerberg tarocca e copia l'idea di un altro, gli va bene, perché a questi due ragazzi deve andare male? Beh, questi due ragazzi in realtà un po' ingenuamente cominciano una via crucis, cioè si rendono conto che per assemblare un computer hanno bisogno di qualcosa, di soldi, e ingenuamente si rivolgono ad una banca, cioè loro credono che andando in banca con i loro progetti, i loro grafici, la loro idea straordinaria, riescono ad ottenere un piccolo finanziamento. In realtà il direttore di banca, come abbiamo visto nello spezzone letto all'inizio, li accoglie molto bene, ma poi al dunque gli dice: ma voi che garanzia portate? Fermati un attimo, diamo subito questa preziosa testimonianza. Sapete già quanto vi serve? Domandò il direttore. Noi avremmo pensato ad almeno 6.000 euro. Ci bastano e avanzano. Non sono tanti, rispose l'uomo. Non c'è problema. Posso farvi avere un finanziamento nel giro di una settimana. Dobbiamo solo fare la pratica. Avete qualche proprietà immobiliare? Una casa di vacanze? Un appartamento da qualche parte? No, niente. Già paghiamo a fatica l'affitto. Questo è quello che sentono rispondere Stefano Lavori e Stefano Vozzini quando sono andati in banca per essere finanziati la loro fantastica idea. Avete una casa su cui accendere un'ipoteca, se no su cosa ve li diamo i soldi? Già, perché dare i soldi soltanto su un'idea, naturalmente nella Napoli dell'immaginario in cui si muovono questi due ragazzi, sembra impossibile. E tu? Una casa tua? Una proprietà? Parliamoci chiaro. Le banche prestano i soldi molto volentieri. Guadagnano praticamente su questo, ma non corrono rischi. I soldi si prestano a chi porta garanzie. Una busta paga, un immobile, un giro d'affari già consolidato. Dovete essere solvibili, cioè se va male e non ripagate prestito e interessi, dovete avere qualcosa su cui possiamo rivalerci. Voi che cosa avete? La nostra idea, direttore. Lei ha detto che è geniale. Avrà un valore, no? Ribatté Vozzini. No, è geniale, ma non vale niente. Sono chiacchiere. Quando farà soldi, avrà un valore, rispose il direttore. 800 24 0024. Aspiranti Steve Jobs che vi muovete nella Napoli dell'immaginario, chiamate questa mattina come ha fatto Paolo. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Io ho 50 anni, quindi aspirante, credo ormai, ma diciamo aspiriamo ancora. Beh, aspiri alla sopravvivenza, come tutti noi cinquantenni, già è molto. Esattamente. Ah no, ad esempio, questa piccola esperienza, che però potrebbe anche non essere significativa, nel 2000 io e un mio ex collega che lavoravo in televisione avevamo pensato, diciamo così, a una sorta di YouTube di quei tempi. Il problema è che non erano solo una questione di soldi, ad esempio in Italia mancavano le risorse, cioè la banda, mancava la rete, mancavano le infrastrutture, per cui avere questa idea, ad esempio in Italia, molto probabilmente è un'idea che non poteva finire senz'altro bene. Negli Stati Uniti invece molto probabilmente non solo ci sono quelli che si chiamano gli angeli degli investimenti, che quindi magari finanziano uno Zuckerberg ma non finanziano magari quello che ha avuto l'idea originale, però in Italia mancano anche le strutture per poter molte volte avere questo tipo di per poter creare queste idee, YouTube, Facebook e via via. E poi mi sembra di aver visto, e chiudo, in un documentario su Rai Storia, che ad esempio il primo personal computer è stato inventato in Olivetti. Sì, sì. Prima ancora. Risponde a verità, ma molte altre, anche il microchip, altre invenzioni importantissime, fondamentali, vengono dalla creatività italiana. Però oggi e il mondo va verso questa direzione. Pino Aprile, buongiorno. Buongiorno a voi. Pino Aprile, ti disturbiamo. Ti hanno già chiamato come leader i Forconi o no? È un po' che c'è chi mi tira di qui e di lì, ma io so fare, spero di sapere almeno un pochino far quello, il giornalista, il resto lo lascio agli altri. Senti Pino, non scherzo, ricordo che Pino Aprile è stato nostro ospite anche recentemente, autore del bestseller Terroni, che ha rilanciato un'idea di un possibile e probabile e fondato su elementi certi riscossa del Sud. Terroni, tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del Sud diventassero meridionali, edizioni PM, e Giù al Sud perché Terroni salveranno l'Italia fu il primo libro edizioni PM. Tu Pino Aprile hai pure fatto la prefazione della storia di questi due ragazzi. Secondo te è corretto continuare a dire che esista una Napoli dell'immaginario, chiamiamola così perché è la città che rende meglio l'idea, senza gettare croci addosso, che renda impossibile alle latitudini del nostro paese, esteso dalle Alpi alle piramidi, il fatto che si produca uno Steve Jobs? Sì, ma io, come dire, tenderei a matematizzare la cosa. In che senso? Non è Napoli, è un luogo qualsiasi, forse neppure Italia. Cosa racconta la storia di se Steve Jobs fosse nato a Napoli? Racconta la storia dell'impossibilità di sviluppare qualcosa ove ne manchino le circostanze, perché gli esseri umani, quelli sono. Quello che fa la differenza sono le circostanze. Faccio un esempio. Se io produco qualcosa a Matera e un mio concorrente produce la stessa cosa a Brescia, io sono spacciato. Perché in 150 anni io ho bisogno di trasportare le mie merci, ma non ci sono i treni da Matera, non c'è la ferrovia dello Stato che arrivi a Matera, Europa 2012, oggi. Non c'è un'autostrada che porti a Matera e possa favorire il trasporto delle mie merci. Non c'è un aeroporto in tutta la regione. Se sono lucano, per far prendere l'aereo, i cargo alle mie merci, devo andare nelle altre regioni. Quindi la circostanza rende praticamente impossibile a me la concorrenza con il produttore di Brescia. Le circostanze non sono mai figlie del caso, ma sono create. E faccio, per spiegarmi meglio, faccio un altro esempio. Lo scorso infausto ministro alla pubblica, purtroppo, istruzione, cioè la signora Gelmini, disse che voleva premiare le migliori università in modo da, come dire, sostenere il merito, e quindi, se vogliamo, Steve Jobs, visto che siamo in argomento, e castigare gli altri. Peccato che non annunciò a nessuno quali erano i criteri in base ai quali si sarebbe stati premiati, cioè avendo più soldi. Un giorno se ne uscì e disse: sono risultate vincitrici, guarda un po', le università del nord. Quali erano i criteri? Sono premiati, cioè hanno maggior merito le università i cui laureati trovano più facilmente lavoro. Oibò, al sud sono maggiormente meritevoli le università che ricevono più finanziamenti e quindi fiducia dalle aziende del circondario. Oibò, al sud. Ecco come con criteri apparentemente oggettivi si desertifica il territorio attorno all'ingegno. Quindi esiste però una circostanza geografica reale, percepibile. Allora sbaglio io nel dire che esiste una Napoli dell'immaginario che in realtà è tutto il paese, in cui la creatività, l'innovazione è un patrimonio su cui nessuno vuole scommettere, a meno che abbia delle basi certe di non rischio industriale, diciamola così. Questo è assolutamente vero. In più, piccola notizia, ve la do: job a Napoli c'è. Cioè, nel mio giù al sud mi sono imbattuto in una fantastica ragazza che fa volontariato, eccetera, che ha acquistato delle sedie a rotelle con le quali i disabili possono finalmente andare sulla spiaggia e persino fare il bagno, e si chiamano queste sedie job. E io chiedevo ingenuamente: ma job significa lavoro? E disse: no, ma siccome le hanno inventate a Napoli, job sapeghiamo bagna. Quindi quindi diciamo, in un certo maniera ha taroccato il brand forte, ma allo stesso tempo ha dato una lettura localizzata a questa sua innovazione. E queste sedie a rotello fantastiche hanno un loro mercato, quindi lei in qualche maniera si è, non dico arricchita, ma ha tratto un beneficio da questa sua idea, oppure le produce così artigianalmente? No, lei non le produce, lei le producono, le hanno inventate e le producono a Napoli. E lei, siccome assiste a molti disabili, è riuscita a raccogliere i fondi per acquistare un po' di queste sedie con cui portare finalmente al mare per la prima volta in vita loro i suoi disabili. Però vedi, rimaniamo ancora nei margini di una tenera storia che ci commuove, che ci fa piacere, ma non è mai diventato un grande business questa cosa, come meriterebbe di essere. No, questa era giusto una curiosità, ma per esempio, per legarci alla lettura, le banche, eccetera, bene, non c'è il Sud è l'unica macro regione europea senza una banca, senza una grande banca. Non solo, quelle che aveva, tipo il Banco di Napoli, sono state, e diciamolo pure, truffaldinamente espropriate. Basti pensare che il Banco di Napoli, con l'accusa di essere in bancarotta, fu comprato, regalato a 60 miliardi di lire e rivenduto a 3.000 subito dopo. Allora, fermiamoci soltanto un minuto, Pino Aprile, perché dobbiamo dare la linea, sono già in ritardo per le informazioni della borsa. Riprendiamo tra un istante per capire se ci sono altri Steve Jobs che sono malauguratamente nati a Napoli. Melog, la realtà condivisa. 800240024 è il numero per partecipare a questa puntata di Melog, che sta raccontando la storia di due ragazzi dei quartieri spagnoli che avevano avuto una grande idea, e anche loro sarebbero potuti essere come Steve Jobs, ma erano nati a Napoli. Questa storia è diventata un libro che, messo online dall'autore, è stato letto da oltre 500.000 persone, è diventato un vero fenomeno anche all'estero, è stato visto, letto e ne hanno parlato. Adesso è pubblicato in un libro cartaceo per la Sperling e Kupfer, Se Steve Jobs fosse nato a Napoli. Antonio Menna, rispetto, oltre a quello che ha già detto Pino Aprile sul problema delle banche che possono porre degli ostacoli, quali erano le circostanze ambientali? Immagina però un ampliamento della dimensione geografica della Napoli che tu hai raccontato, che hanno impedito a questi due ragazzi di essere come Steve Jobs di fronte alla loro fantomatica e fantastica invenzione. Ma i due terzi della Via Crucis di questi due ragazzi si sarebbe svolto in qualunque posto d'Italia. Il secondo passaggio infatti è quello della burocrazia. Questi ragazzi, che un po' ingenuamente vogliono assemblare questo computer, scoprono di dover costituire una ditta. E costituire una ditta significa dotarsi di uno statuto, di un atto costitutivo, di libri contabili, di un conto corrente, di posta elettronica certificata, di firma digitale, e poi devono allestire nel loro garage, che avevano allestito così alla buona, devono avere locali a norma, certificazioni varie, certificazioni antincendio, antinfortunistica, sanitaria. Problemi che non aveva Steve Jobs: non doveva avere il gabinetto in una certa collocazione, l'uscita di sicurezza, le luci, gli impianti a norma, che giustamente debbono esserci, però per lui era più facile. per lui era più facile perché era una ditta di due ragazzi che comincia a sperimentare, per le quali forse si può anche immaginare un regime speciale. Invece in Italia chi vuole costituire un'impresa, anche se giovane, anche se all'inizio, deve sostenere troppi costi, deve guardare a troppe norme che sono troppo confuse e che legittimano la funzione di alcuni mediatori che devono interpretare le norme, quindi consulenti. Questi due ragazzi entrano nel girone infernale dei commercialisti, dei fiscalisti, degli avvocati, cioè di tutta una serie di figure che devono orientarli, ma in realtà gli confondono ancora di più le idee. Pino Aprile, scusate, avevo interrotto prima, anche su quest'altro aspetto, ecco, tu vedi un problema nazionale sulla burocrazia che soffre. Questa mattina vediamo che adesso in due giorni potremo fare un cambio di residenza, se così fosse già siamo abbastanza contenti, però è un grande ostacolo alla libera espressione della creatività, che non vuol dire sregolatezza, il fatto che esistano poi delle burocrazie soffocanti. Beh, questo è un problema, ed è un problema ovunque ovviamente, non soltanto al sud. Sì, ma infatti oggi vorrei parlare di una sorta di allargata idea di difficoltà. Infatti, perché cioè, l'eccesso di norme produce il mancato rispetto delle norme, perché o rinunci, come poi succede allo Steve Jobs napoletano, ma tieni il basso profilo necessariamente. Se hai come dire una certa inclinazione a fare a meno degli scrupoli, bypassi tutte le norme e fai quello che ti pare, il che anche succede, e trovi anche molta comprensione, cioè avvengono cose incredibili in questo paese. Per esempio, si può impedire a uno Steve Jobs napoletano di aprire la sua Apple in un garage a Napoli, mentre in America lo puoi fare, ma nessuno capita che si accorga se viene costruito abusivamente un intero quartiere, anzi una quasi città, alle porte di Milano, e poi tutto viene come dire sanato con un colpo di spugna, perché l'imprenditore è particolarmente importante poi anche in politica. Quindi le troppe norme portano al mancato rispetto delle norme, e l'uscita dalle norme può essere anche plateale, può essere anche macroscopica, ma c'è anche un sistema di controllo che fluidifica anche l'uscita ufficiale dalla norma. Sentiamo qualche ascoltatore. Carlo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Fisico sperimentale della Sapienza. Sì, esatto. Allora, non volevo parlare proprio di me, io ormai sono 30 anni che sto nel mondo della ricerca, per cui però ho un minimo di panorama. Insomma, ho vissuto anche a fare ricerca a Salerno, a Washington, in Svizzera, in Olanda, quindi... Pronto? Sì, sì, la sto ascoltando. Mi piacerebbe sapere qualche collazione fra queste sue esperienze. Chiuda la radio, però. Chiuda la radio. Sì, sì, è chiusa. Prendiamo per esempio Napoli. Vabbè, io ho collaborato per tanti anni, 2-3, con un giovanissimo fisico napoletano molto bravo, e beh, lui a questo punto sta all'IBM vicino a New York, e questo per una ragione molto semplice. Mettiamo che lui avesse voluto fare qualcosa di speciale. Lui non è un futuro Steve Jobs, assolutamente, è solo un bravissimo scienziato e basta. Che non è nemmeno cosa da poco, diciamo. Non è cosa da poco, però lui o va da una banca o va dallo Stato. Bene, la banca, il sistema di assegnamento è così, è quello mafioso clientelare. E non parlo solo di Napoli, parlo anche del nord. Le banche, è chiaro che non è che non li hanno i soldi, li danno a alcune persone. E questo è avvenuto quando stava per fallire il Banco di Napoli, e come la banca che aveva finanziato i villaggi della Lega quando voleva fare i soldi. Quindi è una cosa generale. Lo Stato... Tanto per stare con i piedi per terra, prendiamo quella signora che si chiama Gelmini e che hanno pure chiamato ministro. Sì. L'università ogni anno... Vedo che l'onda lunga dell'antigelminismo va anche a morte avvenuta. Comunque. Purtroppo sì, sì, purtroppo sì. Prendiamo i fondi del 2009, per esempio. Non è che la voglia difendere, ma c'era anche un prima e ci sarà anche un dopo. È stato molto peggio, per esempio, è stato molto peggio. Ecco, ma secondo, mi dia una risposta però adesso, sì. Fuori dalle circostanze storiche che poi su cui il tempo getterà. Però spenga la radio, scusi. No, ma è tutto spento. Sento un rientro Elettronica, va bene. Trova che lei ci sia una particolare tendenza a non voler rischiare sull'innovazione, sulla creatività da parte di chi potrebbe sostenere queste caratteristiche? Molto meglio rischiare su un altro tipo di imprenditoria. Esiste forse una delle tante circostanze per cui Steve Jobs trova delle difficoltà nella nostra Napoli dell'immaginario, perché la creatività, qualcosa che ancora non si conosce, non esiste, viene considerato qualcosa di estremamente rischioso come investimento e come possibilità di sostentamento? Assolutamente, questo è vero, sì, è una cecità, diamo, economica politica, cioè il problema forse è che se la gente vuole il rientro a breve, e per la gente parlo sia del politico che vuole essere rieletto l'anno dopo, sia dal direttore di banca che vuole rientrare l'anno dopo, beh, allora questa non è la tecnica per tirar fuori quel Jobs fra i 100.000, cioè il problema è che il Jobs magari c'è, è che sono gli altri 100.000, diciamo 100.000 bravi che devono avere la possibilità, e poi uscirà il Jobs. Potrebbe anche essere, mi pongo questa domanda, che manchino la cultura necessaria per valutare quale sia il vero Jobs da finanziare rispetto agli altri. Questa è una scelta probabilmente non facile. Sentiamo Sergio. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. Avevo 45 anni, facevo autista. Ho inventato un sistema per non russare più, perché io russando davo fastidio alla moglie. Ma scientificamente funziona, accetta. Perché l'ho collaudato di me. Ma come cos'è? Un apparecchio, un'attrezzatura, un farmaco? Un'attrezzatura, guarda, a larga, diciamo, a metterla in produzione a larga scala dovrebbe costare 2 euro, però io non mi fido, perché ho parlato con parecchie persone che se non lo metti tutto, diciamo, con tutte le virgole nel brevetto, te lo fregano in 448. Però se non lo brevetta non avrà mai il possesso. Io l'ho brevettato su di me, funziona. Quindi non è interessato a produrre commercialmente questa sua idea? No, io sono interessato, però non, diciamo che non ho le possibilità di farlo, e cercherei qualcuno che mi aiuti. Ma quanto costerebbe metterlo in produzione? Questo almeno l'ha considerato. Il pezzo costa 2 euro l'uno. Potrebbe costare in larga industriale 2 euro massimo. Sì, ma in generale lei quanti soldi servirebbero per metterlo in produzione? Allora, bisogna portare il brevetto all'ufficio brevetti, spendere tutti questi soldi, fare un buon disegno, mettere tutte le virgole. Beh, quanto sarà tutto? Quanto sarà? 1000 euro? 1500 euro? No, non mi ha chiesto sui 40.000 euro. 40.000 euro per brevettare? Mi sembra un po' tanto. Onestamente. Ma 50.000 euro. 50.000 euro per un brevetto? A me sembra un po' singolare. Qualcuno, se ha strumenti che in questo momento non ho sotto mano più esatti, mi dica se depositare un brevetto costa 50.000 euro. A me sembra che dovrebbe costare almeno una decina, un decimo di quello che è stato detto. Melog, la realtà condivisa. Per rispondere velocemente alla mia improvvisa lacuna di un istante fa, ho trovato il blog del collega Walter Passarini della Stampa, dove c'è proprio una sua scheda che aveva fatto in un suo pezzo e spiega quanto costa registrare un'idea in Italia. Per registrare un brevetto e mantenerlo in vita si va da un minimo di 50 euro per una sintesi telematica fino a 600 euro per riassunto cartaceo dell'idea che entra entro le 50 pagine. Per la tutela di ogni anno oltre al quarto anno si pagano le 60 ai 650 euro fino al 20° anno, oltre dopo questo termine l'invenzione libera. Poi si aggiungono gli utilizzi di consulenti privati che cambiano a seconda del progetto, ma comunque va altri 2.000 o 3.000 euro. Quindi, come ho già detto, io mi sembrava strano, massimo si possono spendere 4-5.000 euro se proprio si vuole formalizzare il brevetto in tutte le sue forme. Christian, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno. Io chiamo da Torino, ho un'impresa nata nel 2000, ho 33 anni, sposato da 3 con una bimba nata da 15 giorni, ho un'impresa con 14 dipendenti, tutti a tempo indeterminato. Sicuramente fare impresa in Italia è un lavoro complicatissimo, soprattutto quando si è giovani. Quando si va in banca per chiedere dei soldi ti chiedono: bene, bellissima idea, ci porti però la firma di papà o di mamma. Ovviamente, perché guardano, e avere una casa a 33 anni o mutuo sulle spalle di 25 anni però ovviamente immobili non ne ho. Oggi l'unica garanzia che le banche vogliono è quella di avere degli immobili. L'idea vale veramente nulla. C'è da dire che però in questo paese chi vuole fare qualcosa, chi si impegna veramente, qualcosa riesce a farlo. Io sono entrato in contatto col mondo del venture capital circa 3 anni fa. La nostra idea è stata apprezzata da una società di venture capital di Milano molto importante. E vi hanno finanziato? Sì, esatto. Io stavo cercando il finanziamento di 300.000 euro per sviluppare un sistema di prenotazione online per i campeggi, che tra l'altro poi sono riuscito a fare. Ovviamente anche queste società di venture capital vogliono delle garanzie. La società di venture capital non ti dà i soldi per niente. Puoi essere bravo quanto vuoi. Diciamo che per niente è anche chiedere un po' tanto. Giustamente, giusto. No, però loro quello che vogliono è avere una exit strategy di uscita, quindi vogliono uscire dall'investimento nell'arco di 5 anni facendo almeno 10 volte l'investimento che ti hanno dato. Una garanzia che non buttano via i loro soldi, ecco. Esattamente, possono. Ma giustamente. Mi sembra logico, assolutamente corretto. L'unica cosa sennò che sarebbe spazio anche per il signore che ha brevettato il sistema per non russare, che diceva prima, a cui sì, nessuno infatti ha dato sì, ascolto. Sì, certo, però nel momento in cui un'idea viene dimostrata con business plan molto complessi, con già dei clienti attivi, viene presentata come un'idea sicuramente innovativa, è veramente complicato. Quello che cerca di fare la società di venture capital è di mettere dei paletti. Però Christian, lei mi sta facendo un discorso sì, estremamente razionale, circostanziato in tutte sì, le sue parti. Se la media delle persone che pensano è una grandissima idea, non lo dico per accanimento, ma perché era sintomatica, e il signore dice per lui era anche un problema scrivere il testo del brevetto, dice ma hanno detto costa 40.000 euro e non c'è nemmeno andato, quando ne può costare un minimo di 2-3.000 euro, ecco, e se la cavava. No, ma infatti quello che voglio dire è che non c'è, per queste cose non c'è spazio, giustamente non c'è spazio. No, bisogna avere molta voglia, bisogna avere lavorare 12 ore al giorno se bastano, però io devo dire ce l'ho fatta a trovare questi soldi, ho trovato dei finanziatori grazie al Politecnico di Torino che aiuta i giovani imprenditori, i giovani che sotto i 35 anni che hanno delle idee, quindi chi vuole ce la fa. Però sentiamo anche Massimo, grazie Cristian. Massimo, che mi pare anche lui sia della stessa idea. Massimo. Sì, anch'io volevo dare un taglio un pochino diverso e un po' sono d'accordo anch'io che in Italia si può fare qualcosa, in Italia, a Napoli e in Italia si può fare qualcosa. E soprattutto lo stesso Steve Jobs, che è nato negli Stati Uniti, mi pare avesse un socio che dopo una settimana non ci ha visto chiaro, non ha voluto rischiare, ha lasciato la Apple, no, adesso è diventato il famoso colui che ha perso l'opportunità. Quindi sì, anche negli Stati Uniti passerà il resto della sua vita a battere la testa sul muro, chiaro, come tutti quelli che a suo tempo non finanziarono Zuckerberg e fece una sorta di richiesta di raccolta. Ne ho conosciuto uno che dice, vedi, se gli avessi dato allora $1,000 oggi ero un miliardario, e al tempo stavo in quell'università, pensavo che fosse una cosa che non valesse la pena. Certo. Però vorrei sentire, quindi lei dice che in realtà la possibilità c'è, però voglio sentire solo un attimo Antonio Menna, da cui è partita tutta la nostra storia, che ha scritto la vita vissuta di due ragazzi dei quartieri spagnoli napoletani che hanno provato ad essere Steve Jobs. Antonio Menna, come finisce la storia dei due ragazzi poi? Beh, la storia non finisce malissimo, diciamo, chiaramente il libro è un libro problematico, non è un libro consolatorio, non tende a dire che va tutto bene, tende a dire piuttosto che ci sono dei problemi, però non è neppure un libro disperato, cioè io non sostengo che in Italia e a Napoli non si possa fare nulla. È quello che è emerso un po' questa mattina, il puro disfattismo è ancora, peggiora ancora di più una situazione di difficoltà probabilmente. Esattamente. Però bisogna mettere in luce i problemi, perché sui problemi e sugli ostacoli si perdono un sacco di risorse, cioè ci sono anche una quantità di persone che hanno delle idee e che però si perdono per strada, è un peccato perché sarebbe un valore per tutto il paese. Allora noi dovremmo interrogarci sui problemi, rimuovere gli ostacoli e mettere tutti nelle condizioni di liberare il loro talento, poi chi lo ha lo realizza, chi non lo ha si ferma. Fermiamoci un secondo, Alberto, buongiorno. Buongiorno. Ecco, io volevo intervenire perché avevo uno zio, mio zio Mario Ciu, su cui voi di Radio 24 avete fatto anche una bellissima monografia. Che è stato indirettamente citato pochi minuti fa. Sì, sì, che praticamente ha realizzato il primo computer in Italia. Per l'Olivetti. Dell'Olivetti, infatti Adriano Olivetti era andato a pescarlo negli Stati Uniti, lo ha portato in Italia e lo ha messo a capo di questa squadra di tecnici, ingegneri. Poi, suo zio era già andato a lavorare all'estero. Sì, era andato a New York, era diventato professore universitario alla Columbia University a 26 anni. E in pratica cosa succedeva? Qual è la grossa differenza tra l'Italia e il resto del mondo? È che mentre negli Stati Uniti l'IBM riceveva un pacco di soldi dallo Stato per cercare di realizzare il primo computer, in Italia l'Olivetti ha fatto tutto da sola, e anzi addirittura quando è stato fatto il primo computer ne hanno regalato uno allo Stato. Io ritengo che sia invece lo Stato che debba appoggiare queste iniziative, altrimenti come si fanno a sviluppare dei progetti che hanno un alto rischio? Lei deve capire che negli anni, esattamente di che anno si trattava? 56. Ecco, nel 56 ancora la parola computer era qualcosa che non apparteneva nemmeno all'immaginario del più avanzato degli italiani, e quindi suo zio giustamente è stato preso agli Stati Uniti e portato in Italia. Oggi la cosa è levemente diversa. Grazie a quelli che hanno partecipato, ci sentiamo domani.